giorno, giura di farlo, leva di torno questa città. Lasciami solo, togli anche il cielo, anche lo sguardo mi distrarrà. E porta via con te tutta la gente intorno a me, anche casa mia. Portala via, portala via. Quando ti avverto lascia un deserto libero aperto solo per me, forte che si diverte a farsi suonare solo da me. È troppo che in me ho questa musica per te, questa sinfonia scritta per te, piccola mia. Questa sinfonia